notte per scalare un promontorio, una collina, con il frigo, la cucina, con l'antenna sopra il tetto, con la doccia, il gabinetto e la TV. Italia va in caravan, per le salite e le discese in caravan, l'amore va in caravan, dagli Appennini fino al mare in caravan. Siamo ancora in viaggio, ma vediamo il campeggio, e col sottopassaggio chi ci porta fino al mare. Siamo giù dal casello, mentre pago mio figlio, sopra un letto a castello, pancia in aria se ne sta. La sera tra le barche capovolte, accenderemo un fuoco in riva al mare, seduti con le gambe accavallate, una chitarra e un coro per cantare. Mangeremo pesce fresco arrosolato sulla griglia, te mangiate di merluzzi, triglie, cefali e molluschi, con gli amici del campeggio insieme a te. Italia va in caravan, per le salite e le discese in caravan, l'amore va in caravan, dagli Appennini fino al mare in caravan. La mattina seguente con la canna da pesca, con un verme per esca qualche cosa prenderò, tra gli spunti dell'onda, respirare lo iodio, efficace rimedio per chi fuma e per chi no.